piacere, perché altrimenti non ce la farebbero a contattarsi. Ah, beh, quello è vero, se ha denunciato tutto quello che sono le entrate, erano le campe, in effetti è vero. Non puoi denunciare tutto quello che entra. Devono essere anche un po' ammortizzati su, capito? Io dico sì, non essere evasore totale, però cazzo, devo denunziare il minimo centesimo, e cavolo. Vabbè, però c'è gente che preferisce lavorare a quei livelli, cioè praticamente lavorare onestamente più non fare niente. Quanto fa uno? 200.000 euro. 200.000 euro mettono le tasse, le spese, mi avanzano i 50.000 puliti e vivo con 50.000. Ci sono quelli invece che non si accontentano, che praticamente sono quelli che fanno questo gioco, ne dichiarano 150.000 e gli altri 150.000 si mettono in tasca in nero, quello il discorso. Sì, è vero, è vero, è vero. È vero, purtroppo è così. Oh, vabbè, anche lo Stato è il primo che mangia 7 grassi, così che sono proprio loro che danno l'esempio al cittadino. E purtroppo è così. E si conferma tu, si conferma. Purtroppo è così. Però, ti ripeto, se il governo riuscisse a mettere un po' in carreggiata le cose e a dare un po' di spazio a quelli che veramente non vogliono lavorare, io penso che il problema sia risolto per tutti, perché non c'è spazio, non c'è tregua, capito? Non c'è tregua. Tra delinquenza e balle varie, alla fin fine uno che ha un'azienda dice ma a me che me lo guardi in barca, sta così, e non posso tranquillamente lavorare senza pagare tasse, senza fare niente, tranquillo e sereno. E invece quando fai quelle cose tu mi stai già subito, quindi ti chiudono tutto e hai finito di lavorare, perciò la gente non rischia, non... quello che è onesto non ce la fa rischiare. Perché sono anni e anni di sacrifici e rischiare più di tanto non ne vale neanche la candela, la verità sì. Non ne vale la candela, no, non ne vale proprio la candela. Vabbè. Vabbè, te non c'è, te l'hai messo, non c'è più sentito troppo. No, ho detto che faceva passare un po' quella banduria che c'era lì. Nella sua zona poi entrava, non lo so. Primo Ceci, sì? Beh. Ehi. E che vuoi sia Lugariello? A me, i Mattiatti. Ciao Lugariello, ben sentito. Ma tu, ciao Claudio. Il computer non va, non fa l'audio. Almeno il fascio, almeno lo sono balle, cazzo, ma... sono formattato, sto tutto bene, adesso non io dà l'audio, no? No, non è acceso, non troppo caldo acceso. La gestione di Pro Computer, no. Dai, ho 2 giorni fuori, sono entrato stasera. Ma sai, Flavio di Grigli, a cucarmi. Domani me lo sono fatto, lo sai, dove ci dovevo uscire, tu? A Carlo Forte, la gente di Carlo Forte. Ce l'hai pigiato? Sono andato in Gaglia, vero? Dopo Gaglia, dopo, Sant'Antioco. Che sciura. E come mai? Tirare un motore. A ritirare un motore che arrivava a Carlo Forte, non devo fare il catarro del tuo motore. Sì. Che casino adesso. Ah, forse mi migliorassimo un peggio rende, capite, boh? Io non sono scappato, ma voglio la dire. Telefonando, Carlo Forte, ehi. Adesso c'è anch'io Carlo Forte. Già. Yeah. Saremo anche a sesso lì. A me lo carino, cosa c'è sul cazzo di computer? Tutta la rifatta più grande di ieri, poi da manovra trovavo voglio. così, perché non è così. Ah, non mi confidi della balla, ragazzi, ma non avete fatto pure il progetto, l'ha già fatto. Infatti, se ho fatto il progetto, diciamo, vanno a rompere le scatole all'opera. L'opera è il suo lavoro per quello che c'è nel progetto. Ma se compresi, lui da voi siamo nei Trancentaura, non va bene. Perché poi si accorgono a poter progettare perché il lavoro è finito, poi è sbagliato, capito? Quindi cercano di rimediare tutto lì. Ma ormai è buono rimediamo. Di là non viene più, quindi sono state già stanziate, finanziate e spese pure. Perciò adesso se vogliono fare altre cose devono pagare di nuovo, perché sennò noi dalla prossima settimana a fine mese metteremo tutta la prefettura. La solita massassi si va giustamente settimanalmente così per fare i controlli, le misure, se tutto sta procedendo bene, però tutto è a casa. Beh, ci mancherebbe altro, ho capito, sì, deve andarci perché giustamente una volta alla settimana per i controlli, ma no, non è che deve stare tutta la settimana viaggiando, ma no. E se lavori voi l'avete fatto, non vedo motivo perché poi dovete, se lo sbaglio è stato loro, correggere il sbaglio di loro. Se c'è un progetto tu fai quello che ti danno, loro. Se pur lo sbaglio è da loro, tu non ci puoi far niente. Ma infatti, non c'è proprio niente da fare. Cappa di roccio. E così, è così, infatti. Ah, potete dire. Lasciala cantare, lasciala grande cantare. Sì, esci vuoi cantare, e se no ti lasciare il buttare il microfono. Se no mi hai fatto un ingresso con la persona. Ma sei in difficile, tutti gli altri ci davanti, in corso e cagate. Se lo sa, ho detto sì, non lo vorrò qua. ha detto che mi ha detto bene, ho detto poi che ti conosci, e dice io sono della provincia di Savona, ma non male neanche a Paragone, è gialla l'acqua, qua sembra acqua della piscina, e che ti ha giudizio, ma te ci inquinamento per la Savona, no? Sì, se devi avere un inquinamento, è vero, è vero, io un po' di siroghi, ho cercato di vivere a Salerno, le torri, cazzo, la sabbia, Nizza, cazzo, cazzo, qua. Infatti stavo dicendo quello, cioè come fate a tenere la sabbia così, come facciamo? Ha detto la coliamo tutte le mattine, c'è una squadra che viene, la cola, e butta via la mondezza, se va, le gappi, se due volte, ne cazzo. La squadra, cazzo, di con la sabbia, cazzo, ma che fanno la gente proprio a riparmi dal massimo, cazzo. Già gli ho risposto, tra la spiaggia bisogna fare le pulite, qua non c'è nessuno che pulisce le spiagge, uno perché è parco e poi perché è tutto naturale, e sì, vero, infatti ci sono le alghe, ma le alghe non si possono toccare, le alghe qua nel parco sono protette, è una cosa protetta proprio. E come stava a favellare, mi dai a favellare le balle, cazzo, ho detto, no, mollami subito, era un caldo, cazzo, ieri non si poteva stare. È vero, ma anche oggi c'è il caldo, l'hai notato, c'era molto caldo, c'era quel vento, sembrava un vento scirocco, caldo. Io sono stato bene, sono sceso dall'ostello, sono state le 7:30, poi sono risalito, c'era un vermicello fresco perché c'era questa itagappa, quindi ancora non era aperto bene, cazzo, mentre si avvicinò a mezzodì un caldo, da mezzogiorno sino alle 5, alle 6, cazzo, un caldo non si poteva fare. Posso immaginare cose, me lo posso solo immaginare, guarda, bene, in effetti vanno mancando, lavori male, e ha problemi pure, dai, svolgere il lavoro, mentre se d'inverno uno si mette un giubbotto o qualcosa e tira a campare, ecco, ma almeno lavori nel fresco, ma l'estate è assurdo lavorarci l'estate. No, non viene bene, non viene bene, infatti tra l'altro ci aspettiamo un po', abbiamo sospeso perché 5-6 della squadra sono voluti andare in ferie, che cazzo, veramente era come te ne asciuma, fa vedere la ragione, quindi funzionari abbiamo altri ferie, da oggi 5 in paio, 4 sono in ferie, io rimango qua a Sassari, vabbè, sabato e domenica, ho detto non mi cercate, lunedì sono veramente alla Ginara perché voglio verificare alcune cose, ma ci voglio andare io. Però sabato e domenica l'ho detto, non mi cercate perché ho bisogno di riposare. Poi lunedì mi faccio un salto da solo, vado alle 8 ma me ne rientro alle 2, a meno che non decido di rimanere lì sino alle 6, ma me ne ando a mare. Mi porto la roba, asciugamano, vabbè, ce l'ho sempre la sacca, ce l'ho nel costume. Cazzo, gioco in macchina. Ma scendo giù a Cala Giordano, mi fa dire, guarda, non posso mai da dormire, ragazzi, tocca venire con l'elicottero, la pigliamo, e chi manco della ragazza intendo. Cazzo, vedo, è dura, la so, dura e male, dura, ma insomma, poi, quando si è stanchi, cazzo, non mi ha voglia e non hai voglia di nulla, perché ti viene la sonnolenza leggera, e perché la stanchezza che ti porta anche a dormirti, mi hai capito? Che santo, siamo come sta a fare a Disney, quindi siete voi, no, non c'è niente da fare, io quando è ieri ho dovuto iniziare alle 7:30, vabbè, poi che abbiamo iniziato alle 8, ma alle 8:15 era ancora operativo e stavamo facendo verifiche, c'era gente da produttore, c'era stato il sindaco Beniamino, poi c'era andato appuntamento di Ferrovale, c'era l'assessore Francesco Pulco, tutti i produttori, altra gente, quindi abbiamo tra pranzare e fare ci ha fatto tardi, perciò ci siamo trattenuti al fresco a verificare tutte queste cose. Poi loro sono usciti da Trentino col gommone, ho fatto calare a Trentino col gommone, io sono rimasto dentro perché avevo da fare stamattina, se no me ne sarei uscito anche io, ma non fa, non ci riesci. A Calanda Torra, e poi dopo dormito, cazzo, c'era un caldo, cazzo, vero che tu, c'era la finestra aperta con le zanzariere, ma cazzo, non c'era un filo d'aria, allora gli atteggio condizionatore, invece mandare aria fredda, mandare aria calda, ma vai, non la mara. Oltre da roba e fagliatori, la pianeta. È vero, vero, vero. Oltre da roba e fagliatori. Ma lì è così. Lì è così. Infatti oggi ci vogliamo, ci si trattiene, no? Fai trattenere la tua sorella, io me ne sto andando. C'entra la sua moglie, faccia sabato e domenica con noi, vai, poi ti sa male, vai. E di là che convinci, vai. Non credo proprio. Non credo proprio, mi c'è la mia fratella oggi. Sono andato in telefono, mi ha chiamato stamani, 7:30. Giovedì, Asina. E noi mi arriviamo adesso, Quando ci vuole le due, mi dice che lei vengo preso. Arrangiati. No. Nulla, ci siamo visti proprio così e via. Ma che ma cosa, andi a fare, non ho preso, a fare cosa, a fare cosa, a girare a piedi, cazzo, a fare tutto il giorno questo zainetto in mano, non volevo in mano, si scende in campo l'atterraggio, cazzo, per carità, tutta la riuscita di me. Se ci vuole andare per lavoro sono costretto, per carità di Dio, ma che devi andare in Chivi a farmi lo bagno, gatto, a passare una marina in Chivi a farlo, a farmi mangiare la zinzola. Sì, infatti, bello, bello, bello, e dopo è sacro di cose, no, non fanno, a parte che poi fai magari il sacro di cose, cioè io a piedi, dico, no, l'ombrellone, il doso, lui, lascia bene il braccio. Ah, lascia bene. Meglio niente, non tu, meglio niente, parliamo di altro. Quindi anche tu hai finito quella parte lì, grazie a domani, però la devi andare in Chivia, continuare su Massetto. Mamma mia, grazie. Pure tu io sei... già sei incasinato, allora, oggi tu che la stava a puzzare, per me manco, batta a buccia. Arrivi, grazie, non è che ci provate questo massetto, batte la cortesia, adesso non ce la faccio, vedi, il gatto, boom, man. Se vai, non ha già fatto il filato massetto. Se non ha stato a Paraghini, attenzione, ragazzi, a parlare del massetto, lì. Duio. Ho bisogno, ti so. Cazzo ci sei, ti abbiamo chiamato 10 volte. No, ci vanno a fare in un babuto, confitta. Non va l'audio. Non lo so. Adesso vediamo. Perché mi sono un po' male, pagare internet e non utilizzarlo. Qui c'è un computer, lo devo ricomprare. Adesso vediamo. Vediamo un po', insomma, butto e tra butto. No, però non lo spacco, non lascio niente. Lo spacco, c'è un butto, non lo vuoi vedere. Va bello. E allora io mi caccio tutti i giorni con Pitta. Non è che, anche se paghiamo, pazienza, rimane curato, c'è voglia ancora. No, c'è troppo caldo, poi faccio la testa. Ecco se compiamo. Riprendi a tu che va bene. Ehi, ehi. Allora, dai. Saranno problemi, dai. magari guarda, vediamo un po'. L'ho formattato, guarda, quei giorni qua. Io ho fatto fare tutti gli aggiornamenti, tutto qua, andava bene, era grande. Passava l'accendo, ma Claudio. Che cazzo adesso? Quando ho fatto i drive, audio. Vediamo un po' come si blocca. Vediamo un po'. Vediamo qua. Buono, sempre la stessa, buono. che è tenuto, ma sabato domenica a riposo, poi lunedì va a tornare ad andare a cenare. Yeah. c'è un filo d'aria. Ma signore, quando c'è un ventilatore a palla, ma non fa niente. Sto schiumando qua dentro. Sto schiumando bene bene. Lo so, lo so. Non vuole uscire, andare, fare un passeggiatino, mangiamo un gelato, non sono stanco molto. Adesso chiudo, mi metto nel salone, c'è un po' più di fresco. E poi mi curico. Dai, vi saluto a tutti, ciao a tu. Chiudo perché sto rischiando di addormentarmi nella sedia. Ciao Luca, ciao a tutti, ci sentiamo domani. Ciao Claudio. Buonanotte, buon riposo, buon tutto, là, ce la riascoltiamo domani. E io pure sono sapendo che sono quel tracco molto. E niente, ciao Luca, tutte le prossime. Passate una buona serata. Ciao Claudio, ciao Antonio, dai, buonanotte, alla prossima. Grazie, ci troviamo là domani mattina. Ti fa trovare, al solito porta. Ho trovato ieri a Gennaro, ma lui è inquiria. Dietro lunedì. Già lo so, già lo so. Ma se non va Gennaro, allora non fa tenuta, capito? Vabbè, al limite ci spostiamo, vediamo un po'. D'accordo, vai. Già ci vediamo lì comunque. Tu a cosa stai lavorando? Lei no, adesso sto lavorando, mi sento 7:15 domani. Casino. Allora, siete liberi presto, già sera, vai sia. Ciao a tutti, buonanotte. Anche se non mi trovo in un'altra cadere, c'è già sta battella pure. Ciao, a domani ragazzi. Ciao, ciao, ciao. Ciao, Claudio, a domani, ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao, buono. Vediamo un po'. Che palle. fatto anche qualche driver. Sto finendo le micchia. Allora, andiamo un po'. Ai ai ai. Tutto l'ho formattato anche lui. Facciamo c'era anche il virus che rompeva la scatola, invece c'ero. Niente. Formattato e nada, nada. Non va, roba non va. Allora le facciamo fare roba da aprire. Prego, al mischio, però ecco, però lo spacco tutto, non lo guardo più al suo computer. E al mischio, cosa hai in questo momento? Quanto hai? 20 giga? 40! Hai cominciato a più o meno con quel giga? Io ne ho 1,4, sempre formattato. Ogni mese lo formato perché non si siede sempre, non si siede, non va, calma. Non sono lì, sto qua la prima volta che faccio una moto, tu non fai risalire a guarda, non è una roba aperta, senti, lo che acqua io, e se non faccio ce la vedo, perché non me lo smatte niente, cioè non attiva più come prima, ecco. Comunque, ero superato in senza avvisarmi né niente, siccome andavo in altre room, non mica obbligato a rimanere sempre lì. Da lì mi hanno messo admin, senza avvisarmi, dice che mi stavano contattando e mi dicevano a contattarmi, non so. Poi praticamente ho fatto una scusa. Mi ho detto, adesso che ho fatto quel progetto, senza avvisarmi, mi hanno del tutto, ehi ma sai, no, non mi interessa. Non sono un bambino, non so, solo per passare il tempo. Voi siete troppo severi, troppo. Allora, me la chiuso, la volta è tanto 60, la comanda lui adesso. Però ci comandavo io, come comandavo altre persone. E poi è stato un subentrato lui e comanda tutto lui. Se vuoi una cosa gli chiederà lui adesso. Ma te rendi conto? Una chat. Perfetto. Grazie. Non ti traffico di chat. Ma se tu prendi milanese, ma te fa cosa, no? Entro lì, ecco la cam, cercando, sei a casa, ma si vede la prima faccia che mette a metà, diciamo, dai, tra tutto il mondo e la ma no, va bene, non è uno scandalo. Mi sta questo Marco, una chiocciola lì, cioè un modo proprio sgarbato, fino a cam perché non so, metto una cosa che non mi ricordo, vabbè, poi mi chiudo la cam, poi c'è un problema, mica sono nudo, ho detto, chiudo la cam, ho scritto va bene, chiudo la cam e mi saluto anche, arrivederci e grazie. Dopo un po' che contatta il team, e il team è milanese, c'era sempre lui, no? E ha fatto finta di non essere lui, e mi ha detto, vabbè, ci stiamo scrivendo, con lui gli ha detto, ascolta, digli a Marco, la chiusa, imparare il primo a fare moderatore, e poi viene a dire cosa a me. Poi non sai, non così può, però fanno gli altri, cioè non è che mi caccio nudo, scusa, non è che ti facciano chissà che cosa. E ma non va bene, beh, mi ha messo la guanna a vita, mi ha messo la guanna a vita. Ah, in quella ruota questo sei mandato a vita. Ma allora, se una comune prende queste cose, deve studiare su un regolamento. Dovete conoscere il regolamento, ma no, dovete mettere delle regole. Perché non mi risulta che su quel tipo di ruolo uno non possa entrare in questo mondo, non mi risulta questa cosa. Perché se fa altre cose, allora è un'altra storia, ma se uno lo ha fatto con uno, come sappia non esistono di che tipo di regole in quel modo lì, a meno che non ve le faccia lui le regole in quel modo. Adilo allora, va. Ma se tu accendi la roba, se per mattina lo sono già lì, quando tardi la sera, ma non me ne frega niente, io non mi sono comportato male. Ho solo aperto la camera, senza la 10, appunto, e ti faccio vedere a te, Carlo. E anche adesso no, perché è chiusa. Una room, è di Carla, passando 2007. Mi ho chiesto, posso aprire la camera, non ho maglietta, certo la puoi aprire. Fumigi, l'unica room che posso aprire è quella di Babylon, però non so, possono permettere neanche, sono tutti vecchi di destro. Tu un'altra, buon Milano, Milano, aspetta, Napoli, musica Napoli, cosa del genere. Guarda, siamo a essere cavolo, ma siccome amiche di Soglia, se ne fa che amiche qua, no? Allora ho fatto la cam, avevo praticamente appoggiato sui cuscini, ma lei era uno scandalo. Mi fa, no, fatto la rumorata, l'amica sua. Luca, chiudi la cam, metti la maglietta, e poi se la stava scherzando. Ho detto, ma scusa, ma sei sul serio? Oppure stai scherzando? No, sono sul serio. Mi ha detto, ascolta, io la camera la chiudo, ma ne vado anche, ma io non sono più entrato, ma che sono già più entrata. E l'ho guardata, mi fai dai regolamenti, cioè se tu ti fai una stanza e poi tiri su dei regolamenti, no? Questo non si fa, quest'altro non si fa, e poi ci sono certe rughe, hanno i regolamenti dati da bambini, per esempio. In maiuscolo ti fanno scrivere, certe facce di emozioni non le puoi mandare, tante altre cose. Dipende dal regolamento che applichi tu, ecco. Comunque tenendo conto che in generale, essendo generale, ho una room per tutti, dai. Bisogna vedere un po' i regolamenti che applichi tu in una determinata room. Però in generale, non lo so, bisogna controllare sui regolamenti di Falcone se esiste una regola che non devi assolutamente non si interpretare. Vabbè, finché uno si comporta bene, come hai detto tu, no? Cioè, come hai sempre detto, non mi parolacce, uno lo offende, mi offende chi canta. L'ho sempre detto, no? Se non sbaglio, giusto? Quella regola di non offendere chi canta, se ti metti in gioco, se ti metti in gioco puoi anche commentare, anche a proprio. Ma noi lo sappiamo che la maggior parte delle persone che non sei qui di conto. Ma dai, non lo... Ma non guarda appena, guarda, No, non sento più. Tocca a me. Vediamo un po', provo la sonda, vediamo un po', tocca a me. Aspetta, vediamo se è qua. Vediamo se è qua. Vediamo. Oh, fatto un atto, vediamo di nuovo. Vabbè, comunque non me ne sbacca niente. Mi tengo nel ballo, un po' come le fuori. Tanto io mi sono nel ballo a lui, ho lasciato nel ballo a Marco. Ma non perché... cioè, ho voluto fare anch'io lo stesso gioco. E che mi ha fastidio, no, ciò lo fanno, no, mettono le rume a controllare. Come vedono che salgono le rume a uno nuovo, guarda, subito stanno lì a controllare. Per vedere di chi è. E lui mi sento nel ballo a lui. A cioè, milanese, è una facciata in questo Marco, non lo mettono da me, assolutamente. Poi un'altra cosa, aspetta, ho formattato io, no? Cioè tu una volta li hai formati, cambiare i militi qui. Non so, stavo cercando un giorno, ho formattato una room, sicuramente mi hanno letto uno di loro, e cosa ho fatto? Mi hanno rimandato, mi hanno rimandato. Chopin. di viola, no? Che mi ha regalato. L'ha fatto con una carta di credito, perché se la pago la posto pizza, l'ho qua, dopo una settimana neanche, dopo tre giorni trovare perché non il pagamento non va bene qua a posto qui. Allora ci vuole un conto in banca per fare il di viola. Mi stava spiegando che non ho più il colore, non so, ma c'è cioè, un modo di fare tutto da perfetto, guarda che vabbè, non c'è problema, mi arrangerò. Ma tipo qua sono andato qui tramite un altro che c'è una rossa sempre italiana, poi è stato molto molto gentile, mi ha spiegato anche le per bene. Tu pensa, per fare un mix viola devi fare un casino nero, praticamente devi entrare in questo nuovo tipo, si chiama AFA, e qua si occupa del mix viola. Devi metterti, allora devi scrivere tutti i dati della carta, nome, cognome, indirizzo, invio, tutto quanto. Poi devi metterti in cam con la carta, guarda patente oppure una carta d'identità. Questa tu la devi fare. Fatti fare il chiudio, se no non te ne fa. Addirittura, ma così non sta violando la privacy. Sta violando la privacy, il comune qua. Stavo dicendo, ma a chi? Di guida esterno, da dove siamo noi di Ballano, che lo conosci? Lippi? Lippi esterno, Lippi, il numero di Lippi esterno è da dove passiamo tutti quanti. No, lo conosco. Ah, ecco. Ma che si può cambiare? Ma non è che si può cambiare. C'è un programma che serve dov'è, no? Vedi il filo del server, la zona dove è situato. Una cosa che so, però tu già lo so che ne basti più un po' di contatto, infatti mi hai segnato il tuo, chi l'hai segnato? Vabbè, qualche giorno stai, però ti faccio vedere il percorso o i campi, vado la cane e ti faccio vedere i server dove sono situati. Però mi arrivano, dai. Non c'è problema, ma c'è per il figlio che sì, sta lavorando, non più visto se un ufficio fa parte. Guarda, ormai no, ma non sto entrando più su qualcosa, cioè su qualcosa, veramente non sto entrando più da nessuna parte, neanche su quelli. Ma vabbè, comunque, sempre su Linux 7, no? Non mi piace lì, si blocca tutto lo stesso, comunque. No, non ci siamo più, mancano quasi un anno più o meno da Bailey e da Faltori, perché il server ha resettato tutti i miti, ci ha resettato. Non sto parlando di negativo, non ho avuto capito. Allora sta parlando con Alecco, Carlo. Ecco qua, ecco. Stavo dicendo che su Bailey il server, cioè deve essere il gestore del server che è sicuramente imbranato in Linux, ci ha resettato tutti i mic a tutti. Sì, abbiamo dovuto rimettere, a me mi ha tolto tutto dalla lista, tutti quanti, poi ho notato che li ha tolti a tutti, proprio. Evidentemente il gestore di rete, di quello che gestisce il server, che poi conosco anche la posizione di quel server comunque. Più o meno chi è il gestore. E ha resettato questo carino, evidentemente è imbranato, boh. Perché non è possibile che uno si resetti lì. Cioè tutti quelli che avevano sui profili, qua tutto c'è tolto, a tutti quanti, non solo a noi, ma a tutti. Guarda, l'unica cosa, a me la verità, infatti secondo me, anche se ha problemi di server ogni tanto, ma c'è da un po' meno qua. Secondo me è il migliore. Secondo due entri, ovviamente chi paga la senti meglio la musica, non la stanza, chi è verde e chi è blu. Comunque, ma l'unica cosa che mi piace sono le faccine che sono animate, ecco, quelle sono tutte belle, però nel resto non come cosa non mi piace quel programma. Ma sa che secondo me è molto molto meglio. Siamo a parlare di sempre, Aspetta un attimino che provo a entrare dentro l'IP del server, un attimino, vediamo se c'è. dietro. Ma non dentro il server, dentro a vedere di chi è basta. Scusa, lo faccio vedere, te lo dimando anche a te con quel computer, dai.